Ciao a tutti, ben trovati, ben trovate, Radio Wombat, diretta in speciale oggi, venerdì 8 febbraio, dovevamo andare in onda un po' di tempo fa, ma insomma ritardo accademico perdonabile, e, spero. E vi ricordo innanzitutto subito, se no poi me lo dimentico, i nostri social Wombat, il sito wombat.noblogs.org dal quale probabilmente ci state ascoltando e da cui potete scaricare podcast, seguire la diretta streaming e trovare le informazioni sulla nostra radio, e poi la casella di posta postawombat@insiberia.net, ma anche e soprattutto la nostra frequenza in onde mediocri 13.59 AM, onde medie, quindi se siete così fortunati e fortunate da essere raggiunti dal nostro Wombat segnale. Diretta oggi speciale perché purtroppo sono successi, l'avrete visto, l'avrete saputo, se non lo sapete siete un po' fuori dal mondo, ve lo diciamo noi, sono successe molte cose brutte, concitate a Torino, in quel di Torino, iniziate più o meno nella notte del 7, nella notte di giovedì 7 febbraio, e iniziate con un'operazione di polizia che poi si è conclusa con lo sgombero dell'occupazione di Via Alessandria a Torino, dell'asilo occupato, con diversi arresti. Lo vedremo, vi spiegheremo un po' tutto, vi daremo conto un po' di tutto. Nella giornata di ieri, da quando è iniziata l'operazione fino fondamentalmente a oggi, si sono susseguite mobilitazioni in strada, con scontri, proteste, insomma la giornata è stata lunga e la nottata pure. Gli occupanti dell'asilo hanno resistito per più di 24 ore, giusto? Sì, ben di più di 24 ore sul tetto, al freddo, che insomma in questo periodo non è proprio un clima ideale per starsene allegramente sul tetto. E verso le 11 di stamattina, ahimè, sono stati costretti a scendere, e quindi lo stabile è stato sgomberato, ma insomma non è detta l'ultima parola, anche perché è stato indetto per domani, lo diciamo subito, un corteo nazionale a Torino. L'appuntamento è alle 16, il luogo è ancora da definire perché è in corso in questo momento un'assemblea cittadina a Ledera, un'altra occupazione in quel di Torino, e insomma si sta decidendo un po' i dettagli organizzativi, tra cui anche il luogo dell'appuntamento, e quindi insomma lo sapremo prossimamente e ve ne daremo conto, se non durante questa diretta, perché ancora magari non lo sappiamo, lo scriveremo sul nostro sito, insomma potrete comunque saperlo attraverso questi organi di informazione autogestita. Tra l'altro, ovviamente, una delle prime fonti di informazione da controllare per quanto riguarda Torino, beh, non solo, è Radio Blackout. Radio Blackout, che ha fatto un lavoro importantissimo, lo fa sempre, ma in particolare in questa occasione con una diretta fiume che è durata, penso, 30.000 ore, e che ha dato voce a tutto quello che stava succedendo, insomma, penso abbia dato anche molta forza a chi stava resistendo in strada e sul tetto. Quindi è da questo sito, dal sito di Radio Blackout, che prendiamo le prime informazioni. E quindi vi andiamo subito a leggere un pochino il riassunto partendo dall'inizio. Dall'inizio, ovvero dal 7 febbraio. Vi leggo direttamente dal sito di Radio Blackout, un breve riepilogo della giornata del 7 febbraio. Questa mattina, ovviamente si intende la mattina scorsa di giovedì, alle 4:40 l'asilo occupato di Via Alessandria 12 è stato preso d'assalto da un'enorme quantità di camionette. In concomitanza sono stati effettuati 7 arresti, potrebbero essere 8, poi dopo il conto sugli arresti ve lo diciamo più precisamente a breve, perché chiaramente quelle che vi sto leggendo sono delle notizie date via via e quindi ovviamente non sono aggiornate a causa un po' della concitazione del momento. 7 arresti, dicevamo, per un'indagine per associazione sovversiva, articolo 270, per le lotte contro i centri di internamento e rimpatrio per la popolazione migrante. La repressione di oggi non si ferma qua. Nel condominio di fronte all'asilo, dei compagni hanno deciso di far sentire la diretta radio dal bancone, venendosi sorpresi da un'interruzione di corrente provocata dagli sbirri che presidiavano il condominio attendendoli al varco. Identificazione delle persone in zona rosa, ma non solo, anche presidi di polizia fuori dalla stazione di Porta Susa. Queste sono le prime informazioni date sui primi momenti da Radio Blackout, poi in realtà la giornata è andata avanti. Alle 18 c'è stata un'assemblea in via Cecchi che si è rapidamente trasformata in un corteo che si sta attualmente, vi ripeto, si trattava della giornata di ieri, muovendo per le strade cittadine e in questo momento si trova in Piazza Santa Giulia. Torino è una città, oggi è una città sotto assedio, riprendiamo il controllo delle nostre vite e supportiamo la lotta dei 6 compagni dell'asilo ancora bloccati sul tetto dello stesso. Torinesi non si arrendono al fascismo dilagante della città. L'aggiornamento successivo di Radio Blackout racconta l'aggiornamento di un quarto all'una, quindi della notte. La zona intorno all'asilo è stata bloccata attraverso il montaggio di griglie e possono accedervi soltanto i residenti con relativo controllo dei documenti. I compagni sul tetto continuano a resistere. Allora, altro aggiornamento, sempre da Via Cecchi, sempre da, sì, da Radio Blackout, perquisizioni e sgombro all'asilo occupato di Via Alessandria, la casa occupata di Corso Giulio, 8 indagati, richieste 7 misure cautelari, di cui 5 arresti, un'indagine per associazione sovversiva per le lotte contro i centri di internamento e rimpatrio per la popolazione migrante, probabile sgombero dell'asilo. Mentre scriviamo, ancora le notizie arrivano mano a mano, confermate le 8 inchieste, le 8 richieste detentive, continuano gli inseguimenti per le vie di Torino, dei gruppi di solidali accorsi dalle varie case occupate e centri sociali. Un primo gruppo è stato isolato stamattina sotto Corso Giulio, ora un secondo è bloccato all'incrocio tra Corso Vercelli e Via Emilia, un terzo è stato rincorso in Via Cigna dopo un mini corteo in zona Porta Palazzo. Notizie da confermare arrivano dalla casa occupata di Corso Giulio, dove pare siano accorse diverse altre camionette, notizia che vi possiamo confermare adesso, dopo 2 giorni. Rincorse per le vie del centro e tentativi di arresto volanti in una caccia all'uomo. Ultimo aggiornamento di ieri, aggiornamento ultimo no, perché poi c'è stato quello notturno, altro aggiornamento del giorno, aggiornamento delle 19:30. Successivamente all'assemblea si è tenuta alle 18 in via Cecchi, si è partiti in corteo per riprendere le strade della città e portare solidarietà ai compagni e alle compagne che resistono ancora sul tetto dell'asilo. L'asilo non è stato sgomberato, gli occupanti non si arrendono. Questa è la giornata di ieri, in un resoconto ovviamente frammentato per questioni ovvie, insomma, della concitazione. E poi però, appunto, come dicevamo, la giornata e la nottata è andata avanti, ancora scontri in strada e stamattina purtroppo la conclusione con lo sgombero, le persone che erano sul tetto sono scese, uno di loro è stato arrestato ed è attualmente alle Vallette. Durante la notte sono stati fatti altri arresti in situazioni di piazza. in particolare tre fermi, di cui poi due sono stati confermati, di cui due sono stati confermati gli arresti. Quindi in tutto, ora è un po' difficile barcamenarsi tra le cifre, ma se abbiamo capito bene, tra tutto si trattano di un totale di 8 arresti, 6 arresti per la vicenda, l'inchiesta per associazione sovversiva, e quindi 6 arrestati all'interno di questa inchiesta, e 2 invece arrestati nel corso delle manifestazioni di piazza stanotte. Direi a questo punto di farvi sentire subito una prima intervista registrata da un collegamento direttamente da Radio Blackout, dalla viva voce loro, in modo che vi raccontano sicuramente meglio di me quella che è stata la giornata di ieri. Di nuovo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout, allora facciamo un ultimo aggiornamento rispetto a ciò che sta succedendo rispetto allo sgombero dell'asilo occupato di Via Alessandria. Siamo in contatto con Mastello, uno dei redattori della radio, che è in questa situazione di stallo che si sta prolungando ormai da ore, mi viene da dire. Ci sono diverse decine di solidali che erano accorsi sotto l'asilo, che sono stati messi al muro, praticamente circondati, almeno questa ci sembra la situazione vedendo le foto. Comunque lasciamo la parola a te, Mastello, per aggiornarci su ciò che sta succedendo. Sì, un buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici. Nuovamente bloccato insieme ad altre, lo stesso, una ventina di persone. Ci eravamo sentiti l'ultima volta che eravamo in questo mini corteo improvvisato in Piazza della Repubblica. Poi abbiamo preso Corso Giulio e, arrivati più o meno all'altezza di Corso Emilia, abbiamo corso, alcune persone hanno corso verso la radio. In pratica la polizia premeva per tenerci sui marciapiedi, perché appunto non si possono fare blocchi stradali, questa è la loro, la stanno gestendo così oggi, non fanno fare blocchi stradali, e quando fai blocchi stradali comunque caricano o comunque ti allontanano. E è successo che in questa corsa un po' scomposta verso di voi, verso la radio, in corso Vercelli ci hanno nuovamente circondato, per cui una ventina di persone si sono ritrovate contro un muro. Meno male questa volta c'è il bar, scusate, ma è un po' per drammatizzare. E di fronte, avete viveri se non altro. Sì. E di fronte a quelli che sono riusciti a dribblare il blocco, hanno il blocco della polizia, dopo un po' si sono messi in mezzo alla strada, ma sono stati caricati, alcuni sembra che abbiano raggiunto addirittura Via Cigna, quasi angolo Corso Cirie. In questo momento quindi io mi trovo dalla parte dei bloccati, di quelli circondati. Oggi abbiamo scoperto questa nuova modalità, non era un po' che non vedevo una cosa di questo genere. C'è dall'altra parte, proprio all'angolo, sempre su Corso Emilia, angolo Corso Vercelli, un altro gruppo di compagni e compagne che hanno provato a venire a una certa verso di noi, ma la polizia è raddoppiata, e quindi un cordone chiude noi e uno guarda loro non sono chiusi ovviamente, però è così. Nel frattempo sono arrivate le carte, non so se avete avuto aggiornamenti anche su questo lato, che poi è il lato principale, visto che poi tutti i giornali, così guardando i giornali web, intitolano operazioni di polizia contro il terrorismo, la sindaca fa pure i complimenti, insomma. E comunque sono arrivate le carte, sembrano che gli indagati sono in 7. Adesso gli arrestati sembrano che siano 4, no, sono proprio 5 arrestati, gli indagati sono in 7, e noi le informazioni che abbiamo noi abbastanza sicure sono di 8 persone coinvolte nell'inchiesta. Questi sono gli ultimi dati, insomma. E noi siamo qua sembra che stiano compilando carte, non si sa bene cosa stia facendo la Digos. Va bene, l'appello è comunque di venire lì, Corso Emilia, corso angolo Corso Emilia, Corso Vercelli, insomma. Sì. Per chi può. Questo è il secondo mio appello della giornata, per toglierci un po' da questo stallo, perché è veramente una cosa veramente che ti immobilizza, insomma, perché sì, un po' di spazio sul marciapiede ce l'hai, ma non possiamo andare da nessuna parte, almeno noi di qua. Gli altri possono, diciamo, tra virgolette, girare liberamente, anche se poi quando fanno le cariche poi si seguono, proprio seguono gruppi, persone, sia Digos che Celere. Quindi sono loro da stamattina che sono belli carichi, bisogna dirlo, cioè, per fare una roba così vuol dire che comunque tra devi sentire calla, come dicono a Roma. E niente, invito tutte e tutte qua a Corso Vercelli, angolo Corso Emilia, e tenetevi sintonizzati sulla radio. Va bene, grazie mille. Insomma, ovviamente se la situazione evolve, speriamo si risolva tra poco. Intanto ti salutiamo, ciao, do qualche aggiornamento direttamente dal tetto, ciao. E gli ultimi aggiornamenti sono rispetto a questo che sta succedendo sul tetto. Sembra si stiano provando a salire con le scale dei pompieri. Ci sono ancora diversi compagni che sono barricati sul tetto dell'asilo. Questi sono i messaggi che arrivano. Arrivano poi numerosi i messaggini, segnali di solidarietà rispetto a ciò che sta succedendo. Ve ne leggo uno: solidarietà all'asilo dal confine orientale, da chi lotta contro la portura del CPR di Gradisca in provincia di Gorizia, sempre contro tutte le galere. Un altro ascoltatore, ascoltatrice di Blackout, scrive: forza compagni e compagne, noi siamo lì accanto a voi e ci dispiace, ma la nostra rabbia, la nostra solidarietà ci sono, compagni e compagne, dalla Catalogna è la firma. Questo è ciò che succede, chiaramente sui microfoni di Blackout daremo aggiornamenti in continuo. È arrivato Job, un redattore di Radio Blackout che molti di voi conosceranno, che ha qualche aggiornamento in più, gli passo volentieri la palla. Beh, credo che molte delle cose siano già state dette, però vale la pena fare comunque sempre un resoconto totale per chi si fosse sintonizzato ora sui 105.250. Nel frattempo, beh, palinsesto un po' scombinato, però comunque andremo avanti con le trasmissioni, siamo tutti qua e cercheremo di combinare le due cose. Comunque la mattinata inizia appunto alle 5, anzi un poco prima forse, con l'assembramento delle forze dell'ordine in Corso Giulio sotto la casa occupata al numero 42 e ovviamente all'asilo di via Alessandria 12. I compagni erano comunque abbastanza pronti all'asilo, sono saliti subito sul tetto impedendo così e rallentando l'operazione, che però insomma andava a fondo. Infatti volevano fare degli arresti, ci risulta che siano appunto 8 gli arresti finora, le richieste di arresto, forse uno è un domiciliare, però come potete capire le notizie vagano e non sono perfettamente attendibili e precise, ci sono tante voci che girano. Comunque per quanto ci riguarda sono appunto 8. Si spiega anche per questo motivo il continuo inseguimento, insomma la quasi caccia all'uomo che stamattina ha caratterizzato tutto l'operato delle forze di polizia. Infatti c'è stato un primo blocco di solidari accorsi sotto la casa di Corso Giulio, che sono poi stati rilasciati in seguito, però un secondo assembramento di persone, dopo però, questo va detto, un piccolo corteo che ha girato intorno a Piazza della Repubblica per le vie della zona. C'è stata più che una carica, sì, una rincorsa degli sbirri, che sono riusciti a bloccare una parte delle persone presenti, bloccandole appunto all'incrocio tra Corso Vercelli e via Emilia. Le persone lì presenti si sono un po' riorganizzate, hanno cercato di vedere se la situazione si smuoveva un po', però sono arrivati nuove camionette, evidentemente insomma, la questura aveva preparato da tempo questa operazione, non mancava di effettivi, e quindi è partita una seconda rincorsa lungo via Cinia, e il secondo gruppo ha tenuto per un po' e poi si è disperso in vari rivoli, sempre per le vie della zona. Ora le compagne che sono fermi all'angolo di Corso Emilia sono, come avete appena sentito, bloccati lì, una situazione comunque non più tesa come sembrava. Sono arrivate varie voci, però appunto mi sembra che non sia state confermate, di altre camionette in Corso Giulio, ma credo che si possa smentire, perché ci siamo informati. E per il resto credo che appunto i compagni che sono lì in Corso Emilia hanno chiesto chi fosse nei dintorni di avvicinarsi nuovamente, anche se la situazione sembra stabile, mentre poi sicuramente durante tutta la giornata ci si ritroverà, magari verrà lanciato un secondo appello, poi per la serata possiamo immaginare, questo anche se non è stato detto, però insomma sarebbe abbastanza probabile, quindi direi di incominciare a tenersi liberi o a liberarsi per questa sera. Poco e si mangia abbastanza bene, e poi rientriamo in camminata lunare con i salti di 6 metri, ci vedete avanzare, e Marisa mi tira in un portone e si fa baciare in un arcobaleno di luci. Io la bacio senza protestare, poi si va a casa sua di vicino a fare l'amore, ma senza troppo casino, la sua amica non si deve svegliare, che domani deve andare a lavorare. Quando mi sveglio e sono solo, mi fa male agli occhi la luce, persino il bianco del lenzuolo. E questa è una canzone senza finale, come senza fine il nostro sbatterci, il nostro vivere, il nostro amare vivere, come in un vortice di lavandino, come la fiamma di un cerino che si consuma e a poco poi scompare. Vivere come in un nido di serpenti, con le unghie e con i denti, aggrapparsi alla vita, aggrapparsi per non farla più scappare. Vivere come in un nido di serpenti, con le unghie e con i denti, aggrapparsi alla vita, aggrapparsi per non farla più scappare, per non farla più scappare, per non farla più scappare, per non farla più scappare, per non farla più scappare. dopo i bellicosi mi sembrava d'obbligo mettere anche i Truzzi Brothers, selezione musicale interamente dedicata a Torino in maniera un po' didascalica, ma ci voleva. E, pensavamo qui dietro ai microfoni che effettivamente forse vale la pena di ricapitolare e raccontare un pochino anche qui a Firenze che cos'era e che cos'è l'asilo occupato a Torino, un po' la sua storia, anche perché così mentre eravamo qua che aspettavamo la fine di questa clip, ci siamo imbattuti in un articolo giornalistico veramente bellissimo che vi invito a guardare sulla testata giornalistica C24 sul sito c24.it. mi raccomando, davvero andate a vederlo perché vale la pena, perché c'è l'articolo che racconta di questo sgombero. Torino ha sgomberato un asilo occupato dal 1995, con una foto meravigliosa presa da internet, non lo so dove l'avranno trovata, su Google, con un asilo fatto con i tavolini, si vede Winnie Pooh, poi c'è un orsetto grigio, poi seduto su un tavolino, poi c'è una pecora di peluche, sempre che gioca con una palla, e questo è palesemente questo asilo occupato dal 95 a Torino. Ma è incredibile che questo asilo fosse stato occupato dal 95, con tutti quei poveri. Da Winnie Pooh, poi io mi immagino tutti questi bambini tenuti in ostaggio, terribile, una storia terribile. Chissà questi di C24 con che sgomento hanno dovuto dare questa notizia. Io ho sempre saputo che Winnie Pooh era un sadico. Infatti, per quello che io era così triste, vero? Chissà sì. Che gli faceva. Lo so. No, ecco, aiutaci un po', tu che ne sai di Winnie Pooh e dell'asilo torinese, a ricostruire un po' la storia dell'asilo nel 95 e poi come si è evoluta negli anni. Insomma, che cos'è questo asilo occupato? Ah, io ricordo che era 1995, io avevo 20 anni. Era il mio primo anno secondo di università, lo ricordo, non è vero che lo ricordo, però ho ricostruito per la mia data di nascita, ho fatto i conti e doveva essere necessariamente secondo anno di università. E erano gli anni 90 e Torino era in quella fase post ristrutturazione industriale, cioè si era passati da la città fabbrica, sostanzialmente, quindi con un grosso boom di abitanti e quindi grossi necessità di servizi, scuole, eccetera, eccetera, alla Torino post ristrutturazione degli anni 70-80, cioè quando le fabbriche hanno iniziato a diminuire la manodopera, a spostarsi in altri luoghi, hanno chiuso, ad esempio, parlando della zona proprio lì attorno, o più o meno lì attorno, quella di Via Livorno, che era un grosso polo industriale torinese, era un'area immensa che potremmo paragonare, cioè immaginatevi tipo un luogo grosso come tutta Novoli, però fatto solo di fabbriche. E c'era la Michelin, c'era la Texid, che era un'acciaieria, c'era la Fiat, addirittura c'erano le rotaie perché arrivavano i treni a prendere le cose direttamente lì, nei tempi che furono. Beh, ci sono ancora un po' le rotaie. No. Da alcune parti, per niente. Sì, hanno lasciato qualcosa al Parco d'Ora, però simbolico, cioè non... No, in realtà forse no, hanno lasciato solo la struttura, ma le rotaie non penso che si vedano più. Sì, tutti confondi, perché vicino c'è una stazione che è Stazione Dora. Ah, vero, vero. E comunque, insomma, infatti c'erano anche i docks Dora, che era dove arrivavano le merci tempo fa, però il polo industriale era spostato, era sulla Dora, perché comunque serviva l'acqua per raffreddare, diciamo... Per poter fare lavorazione di materiali così pesanti, acciaierie, eccetera, era molto comodo essere a ridosso di un fiume d'acqua. Infatti adesso, quando stanno facendo il Parco d'Ora, sostanzialmente la Dora la stanno stombando, perché prima c'era la Fiat sopra, cioè era tutta coperta quel pezzo di Dora. Ma questo era per diciamo, inquadrare il periodo storico. E in questa Torino che si andava svuotando dalle attività produttive, ma anche dalle persone, c'era una grossa assenza di servizi e un comunque una una specie di cappa nera che aleggiava sulla città come fosse una città in declino. In questo cioè questa cosa del declino è proprio un mantra torinese, no? Infatti non si capisce quando poi, se non sei proprio di quelle zone lì, bene, quando c'è sto dibattito sulla TAV con quegli altri SITAV che dicono hai declino e questi vogliono, cioè perché questi gli è rimasto questo nel cervello, no? Cioè che siccome hanno fatto schifo in quegli anni e c'è questa perenne nostalgia di questa città presa in ostaggio dalla Fiat, che invece che però roba, non ha saputo poi, ma perché non si può, cioè non ha manco senso ripensare che comunque eri una città ipersfruttata, però giravano dei soldi, vuoi tornare a riessere una città di nuovo ipersfruttata, ricca, cioè, e quindi c'è rimasta questa roba qui. Negli anni 90, a chi era più giovinetto, quindi rimaneva nei quartieri sostanzialmente nulla, perché c'era una città appunto un po' in riorganizzazione, in disfacimento, eccetera, però un sacco di posti vuoti. E infatti era un periodo in cui Torino era... piena di occupazioni, ma quasi una per quartiere, cioè il posto occupato, la casa occupata, il centro sociale di quartiere, era come l'equivalente della circoscrizione, cioè se c'era la circoscrizione probabilmente o c'era la casa occupata, a volte anche due, e se non c'era la circoscrizione comunque c'avevi la casa occupata. Le occupazioni si susseguivano rapide, ce n'erano tante, lì in zona ad esempio c'era la Delta House, poi vabbè c'era stato il Prinz Eugen. E quando nel 95 è stato occupato l'asilo, in realtà nasceva da un momento in cui diciamo come tattica strategica per riuscire a ottenere poi in realtà l'asilo, erano stati occupati altri due posti in contemporanea. Uno di questi posti è quello che poi è diventato la Scatasuna, però non è lì che è diventato la Scatasuna, è stato poi rioccupato anni dopo. In quel momento però, quando è stato occupato l'asilo, c'erano altre due occupazioni, cioè c'era gente sui tetti di altri due stabili a Torino che hanno resistito per un sacco di giorni, fino a quando non sono scesi ed è rimasto l'asilo. E così è sostanzialmente iniziata la storia dell'asilo. L'asilo è collocato poi in un quartiere che sta praticamente alle spalle di Porta Palazzo. Quindi è un quartiere limitrofo al centro, però oltre, cioè è come se ci fosse una specie di spartiacque, cioè il disagio, i poracci messi al sotto di là. Il tappeto. Tu fai poi meno di un chilometro e sei nel pieno centro dei negozi, eccetera. Infatti è una zona che adesso è fortemente interessata da meccanismi di gentrificazione, perché l'ho detto giusto, ho detto una cavolata. Hai detto giusto. Cioè, okay, vabbè. Gentrificazione. Perché è difficile da dire. Sì, sì. Perché appunto in realtà sta vicino al centro, no? Quindi se ne sono accorti, e l'idea è quella: buttiamo il disagio sempre un po' più indietro, lo buttiamo più verso Barriera, che è il quartiere che si chiama Barriera di Milano, perché appunto il quartiere è subito dopo Aurora. Si spinge verso già l'ovest, diciamo, e quindi in quella particolare zona, tra i vari edifici vuoti c'era anche questo asilo con se avete visto le foto, era una classica palazzina dei primi del Novecento, molto piemontese. Ce ne sono sì, tipo anche il Paso era una palazzina, cioè è una palazzina simile, che era stato occupato parecchi anni prima, è stato un po' il papà di un sacco di occupazioni. Questa era, diciamo, la seconda ondata delle occupazioni del giro squatter punk torinese. E appunto si muoveva in questa particolare situazione dove le occupazioni erano tante. Erano tante ed erano dislocate in tantissimi punti diversi della città. Si andava dal fuoricittà, tipo il Barocchio, a tutte, cioè, alla periferia sud, tipo il Paso, il Kinoz. Cioè, insomma, ogni zona della città aveva una casa occupata, un luogo di pischellame o di persone che ci girava attorno. Poi, vabbè, l'asilo è stato poi anche... in qualche modo coinvolto in tutte le vicende torinesi, perché insomma è stato uno dei luoghi di soggiorno di Sole e Baleno, e insomma, ci ha avuto una lunga storia degli anni. La cosa per cui a Torino è più ricordato a livello ludico sono le cene, cioè queste cene di chef Osvalden, che poi si sono protratte fino all'infausto evento di questi giorni. Cene che poi erano un po' anche il luogo di appuntamento un po' di tutta la città, cioè tutta, no, ma insomma una buona parte del movimento. Sì, erano molto frequentati, cioè tu andavi a cena zero, rischiavi sempre di non mangiare un cazzo, perché magari c'erano già 100 persone sedute e te rimanevi lì in un angolino. E di perderti mille chiacchiere, sì. Però era un luogo di incontro notevole, insomma. Sì, sì, sì, ma infatti c'è cioè, la... Vabbè, Torino è sempre stata una città di forti contrasti, no? Dove comunque queste cioè si imbastiva una narrazione nella controparte a giustificare la repressione, sempre molto esagerata. Cioè, nel senso che se tu lo guardi da lontano ti stupisci, dici ma che cavolo c'è a Torino che c'hanno tutto sto... No, perché è già partito così con Sole e Baleno, cioè nel senso che ti buttano sempre addosso questo carico di eventi a dipingere la tua figura da pseudo... Cioè, proprio da pseudo terrorista, ma della porta accanto, no? Come se le due cose potessero legate, come se io potessi stare in un'occupazione, quindi un luogo che di per sé già è molto controllato, però nello stesso tempo ordire delle trame per sovvertire l'Occidente. E quindi e tutto si tinge sempre di questo carico di pesantezza enorme, e questa è sempre stata una cosa tipica comunque del modo di muoversi di magistratura, forze dell'ordine nel torinese, non che nel resto d'Italia, scherzi, no? Cioè non è così, però... l'inchiesta sul 270 bis era un po' di anni che non saltava fuori, no? Finora avevano preferito l'associazione a delinquere, perché era quasi più facile da mettere assieme. Rendeva anche di più, perché anche è vero perché che... Perché il 270 bis comunque devi riuscire a provare in tribunale una serie di cose, un chiaro intento, cioè una strutturazione eccetera che... E ti deve, cioè i 270 bis l'hanno appioppato bene solo ed è un reato cresciuto sulla cioè le bande armata degli anni 70. Quindi c'è da dire che fortunatamente a sto giro e ne parlano abbastanza bene nella clip che ci andiamo a sentire tra un po', è stato contestato il reato di 270 e non di 270 bis, che comunque non sono rose e fiori. C'era anche il bis? No, in realtà pare di no. Scritto male? Sì, perché all'inizio sembrava di sì, ma anche per abitudine, okay. Perché te l'hanno appioppato tante di quelle volte che lo dai per scontato. In realtà 270 bis appunto prevede l'aggravante per terrorismo, mentre invece 270 è associazione sovversiva pura, senza l'aggravante del terrorismo, quindi almeno non c'è il carico da 90 in più. Non che questo insomma renda la vicenda più facile, più bella, ma insomma almeno non c'è questo. Però niente, così. E niente, più o meno la storia dell'asilo non è, penso che sia molto diversa dalla storia di tante altre occupazioni, e più o meno quello che io ricordo di quegli anni, che vanno dal 95 al 98, è essenzialmente questo. Cioè, tra l'altro ci sono state, nel mezzo c'è stato quel tritacarne, macchina per fare soldi solo per alcune persone, che sono state le Olimpiadi invernali, che fondamentalmente ha fatto piazza pulita di tantissime esperienze autogestite di occupazione a Torino, è un po' devastato. La cosa che a loro dava noia di più in quegli anni non era tanto la periferia, ma appunto erano le tre palazzine poi il Phoenix ha occupazioni periodiche e sopravvissuto ancora in maniera alternata negli anni. Il Rosalia e l'Alcova invece sono state spazzate via con le Olimpiadi del 2006, perché erano luoghi impresentabili per far vedere questa città pulita che si riorganizzava, insomma, laboriosa, tutta questa retorica. Sì, meravigliosa. Vabbè, è qualcosa che è comune a tutte le città d'Italia, sì, non sì. È caratteristico del torinese, però no, assolutamente. Le occupazioni più in periferia, per una serie di conti politici, credo, finora sono sopravvissute. Ora evidentemente la giunta appendino aveva bisogno di farsi pubblicità e questa era un'operazione utile, no? Credo, cioè, per passare da uomini d'ordine alla fine te la rifai con cioè un nemico che riesci bene a affrontare avendo a disposizione un apparato repressivo sostanzialmente da pseudo guerra civile. Cioè, sì, sa anche molto di merce di scambio, se devo dire, cioè tra le... Tra la componente di governo 5 Stelle e la componente di governo Lega. Sì, in qualche modo sì, cioè facciamone fuori qualcuno, abbiamo scelto quello che ormai avevano già predestinato da quest'estate o da scorsa primavera, perché per la prima volta appunto in Consiglio Comunale era stato votato lo sgombero dell'asilo. Mm. Sì, uno sgombero abbastanza annunciato, si sapeva, del resto, appunto, lo dicevi giustamente anche te, non è che nel resto d'Italia invece si respira un'aria particolarmente evidente. La politica a livello, diciamo, ministeriale è chiara, è sgomberare tutto, poi la realizzazione evidentemente non è così semplice e lineare, no? Nel senso che non è che i posti occupati affondano né niente. Cioè, si fondano comunque su una base sociale, hanno dei motivi che tu non puoi rimuovere semplicemente con un colpo di spugna, no? Come piace a mister Salvini, dalle parole ai fatti. Sì. Dalle parole ai fatti, però poi devi fare qualcosa anche, non è che se non risolvi quelle contraddizioni che generano il centro sociale hai comunque semplicemente cancellato delle esperienze. Ma insomma, diciamo, non è un discorso difficile per un leghista da capire. No, Porini, che devono capire? No, è inutile farlo, vabbè. No, ma capiscono anche, hanno difficoltà anche su concetti molto più semplici. No, infatti, bisogna parlare facile. Sì. No, però oltretutto appunto la questione è anche il cancellare certe categorie sociali, certe cose che per loro sono semplicemente meramente dei problemi, degli intralci, per far posto a un altro tipo di, un altro modello, un'altra visione di mondo, che evidentemente è una visione che a noi fa piuttosto schifo, che è quella visione un po' appunto da gentrification, da città ripulita, finta, di plastica, dove si può far soldi col turismo. Torino in questo è vero che non c'è, cioè questa dinamica è comune a quasi tutta l'Italia, e non solo l'Italia, insomma l'Europa tutta e oltre, ma Torino insomma è pioniera per certi aspetti, perché quando a un certo punto appunto il declino delle industrie a cui tu accennavi all'inizio ha fatto posto in qualche modo a un nuovo sogno, quasi un sogno americano, del nuovo settore, della rivoluzione, del riprendere in mano la città, ricostruirla attraverso il turismo. Vedevo oggi, leggendo la cronaca di Torino, ovviamente a Repubblica, che si contraddistingue sempre per lo zelo e per le sviolinate meravigliose insomma alla classe dirigente, c'era questa giornalata buttata lì dell'appendino che dice: Torino, il 14% di turismo in più, altro che città in declino. Sempre questa retorica appunto del declino da contrastare, questa spada di Damocle, questa onta quasi, la vergogna da nascondere, però che fortunatamente riusciamo a spazzare via grazie al turismo, che invece se ci darà prosperità e se ce ne darà. Soldi e turismo. Vabbè, questo è un discorso molto più ampio, secondo me non lo possiamo affrontare all'interno di questa cosa, quindi. No, però è interessante, perché poi alla fine magari tra un po', provando a uscire un po' anche da dei confini della singola, della mera cronaca della giornata di ieri e di oggi e dello sgombero così, volevamo proporvi anche un racconto di quello che sta succedendo sempre a Torino, sempre nello stesso quartiere riguardo al mercato del Balloon, che è un mercato importantissimo, dopo magari ne parliamo un po' meglio, e dove tutte queste contraddizioni e tutta questa dinamica viene espressa al massimo grado, insomma, dove si cerca di spazzare via questa feccia per loro, per far posto a qualcosa di molto più accettabile, gradevole e soprattutto redditizio, insomma. Però prima ascoltiamo della musica. Sì, perché ecco, li abbiamo un po' annoiati, secondo me. Sì, infatti, basta. Mi nervosisco se guardo la TV, indifferente anti droga, tipo combatti pure tu. Mi nervosisco se guardo la TV, indifferente anti droga, tipo combatti pure tu. Volevamo sentire da Gianluca un parere proprio su questo fatto, cioè su quanto può aver inciso nell'accelerazione degli eventi di ieri il decreto sicurezza di Salvini e l'impostazione di questo governo. Sì, sicuramente sarà un approccio interessante alla questione e soprattutto cercherà di dare quelle informazioni che potrebbero essere utili nel tempo prossimo a livello repressivo, a livello quindi di cercare di resistere a questo approccio del governo giallo-verde, a tutte le realtà che percepiscono come pericolose o comunque non in non ingabbiate in qualche maniera nello stile di vita che stanno cercando di imporre, testa china, lavoro e disciplina. Questo è sicuramente un approccio molto utile, bisognerà aggiungervi altri tipi di approccio di, per capire la situazione, visto che ieri la situazione è stata un po' concitata e non abbiamo avuto modo di cercare di in qualche modo interpretarla in varie maniere. Nei prossimi giorni, anche fra poche ore, inizieremo magari a mettere insieme i punti cercando di capire cosa c'è nelle carte, eccetera eccetera, perché oltre alla questione appunto della repressione salviniana, così per usare un eufemismo, si potrebbero aggiungere molti altri punti di contatto. Da un certo punto di vista, una repressione specifica di cui si è parlato pochissimo, appunto per via della concitazione di cui si parlava, cioè la questione specifica della repressione, la lotta contro il CPR, la lotta specifica che i compagni portano avanti da anni. Infatti queste misure, soprattutto del 270, l'associazione sovversiva, non sono una novità di ieri, non sono neanche una novità dell'ultimo anno, da quando c'è il governo giallo-verde, ma sono una specifica che è trasversale a tutti i governi e che anche li prescinde. Infatti la lotta contro il CPR ha avuto delle punte molto alte, sia dentro le strutture della detenzione amministrativa, sia fuori attraverso la lotta dei compagni, e lo sapevamo bene che probabilmente in ballo c'era qualcosa di molto ampio, come la costruzione di un reato associativo a partire dal 2015, quando in giro per l'Italia è iniziata da parte dei nemici, delle nemiche, delle espulsioni, una campagna contro appunto la detenzione amministrativa, contro le espulsioni e soprattutto contro Poste Italiane. Poste Italiane che attraverso la sua compagnia aerea, cioè la Mistral Air, portava avanti quelle che di fatto era il sistema delle espulsioni, la maggior parte del sistema delle espulsioni in Italia. Fino a un anno e mezzo fa, appunto, la Mistral Air era la compagnia che maggiormente organizzava questi voli per cacciare le persone dal territorio italiano. Un anno e mezzo fa circa, Mistral Air ha fatto uscire un comunicato in cui, Poste Italiane in realtà, quindi tutto il gruppo, in cui diceva che a causa delle varie che voleva sottolineare il fatto di non organizzare più le espulsioni, perché continuava la lotta in qualche maniera in vari livelli contro Poste Italiane, dalle scritte alle poste ad altre cose che sono successe nel territorio italiano. Quindi non bisogna dimenticarsi che quando arriva la repressione non è mai per fatti specificatamente politici o perché la repressione sia gratuita, ma la repressione arriva anche quando la gente, anzi soprattutto quando la gente prova a resistere e prova a lottare, non è mai gratuita. Infatti bisogna rimettersi un attimo in un territorio di confronto rispetto a quello che succede, che rimetta al centro la necessità di lottare e la difesa di quella lotta, e non soprattutto dire che non succede niente, che si viene repressi solamente perché si è anarchici. Gli anarchici hanno il dovere di lottare, lottano e vengono repressi, certo sicuramente molto spesso perché sono anarchici, ma soprattutto perché hanno lottato, perché ci hanno messo il cuore e non perché sono innocenti. E abbiamo già in diretta Gianluca, ci senti Gianluca? Vi sento, ciao a tutti e a tutti. Ciao, e allora se vuoi intanto a partire da tutto questo, questa introduzione che Francesca ha ben fatto, un tuo primo commento su appunto quanto sulla macchina repressiva messa in atto a partire da ieri nei confronti dei compagni dell'asilo. Appunto, se puoi delineare un tuo primo commento così, sì, a certo. Caldo. Diciamo sicuramente il decreto Salvini, che peraltro io voglio sempre sottolineare, non è un'anomalia nella storia legislativa del nostro paese degli ultimi anni, perché è da anni che la preoccupazione dei vari governi che sono succeduti è di reprimere tutto ciò che riguarda le occupazioni, dal decreto Renzi, Lupi, eccetera eccetera, a Minniti e quant'altro. Sicuramente il decreto Salvini ha in qualche modo accelerato questo meccanismo repressivo, aumentando le pene, prevedendo, imponendo, diciamo, dei piani di sgombero. Scusa, ti interrompo solo due secondi per dare la notizia che è arrivata in questo momento, che i ragazzi stanno scendendo dal tetto, immagino tutti quanti, che sono sorridenti, che possa si rechi ora più che mai sotto via Alessandria 12 per dare il loro sostegno. Il saluto naturalmente a loro, ciao raga, forza e coraggio, e soprattutto un abbraccio a Larry se puoi sentirmi. Larry, ti voglio bene, ciao. Ciao. Allora Gianluca, se vuoi continuare, scusa l'interruzione, comunque è importante appunto, visto darei aggiornamenti direttamente da chi, ricordiamolo, ha resistito tutto il giorno di ieri e tutta la notte, quindi è importante. Assolutamente, esatto. Assolutamente, e mi auguro ovviamente che non ci siano conseguenze. Dicevo, la macchina repressiva ha un'accelerazione sicuramente col decreto Salvini, per tutto quello che vi stavo dicendo, anche perché direttamente il Viminale, al di là del decreto legge poi convertito, ha imposto fin da settembre, in realtà anche prima del decreto legge, con circolari, dei piani a tappe forzate per arrivare agli sgomberi, che riguardano, attenzione, sia le occupazioni di questo tipo, ma anche le occupazioni abitative, famiglie, bambini, eccetera, eccetera, e questo credo che sarà un problema. Mi sembra che Torino abbia assolutamente, voglio dire il comune, l'amministrazione comunale abbia assolutamente assimilato e fatto proprio l'orientamento che ha espresso il decreto Salvini e la circolare del ministro dell'Interno, tanto che ieri la sindaca Prendino si è mostrata entusiasta relativamente a questo sgombero. La modalità che il ministro dell'Interno intende perseguire è quella di ieri, credo, perché queste sono anche le sue dichiarazioni. In un governo che è abituato a normare tramite dichiarazioni Twitter, evidentemente le dichiarazioni contano più di quello che viene scritto. Arrivando alla questione specifica di quello che si profila come il reato che vogliono contestare ai compagni, questo si parla di 270. Sì. Allora, io non ho letto l'ordinanza, quindi posso basarmi solamente su quelle che sono le indicazioni che peraltro vengono fornite anche dai comunicati stampa della Questura. Credo che non siano legittimi comunicati stampa né delle Questure né delle Procure a procedimenti penali in corso, ma vabbè, questo ormai è l'abitudine. Mi sembra di capire che siamo totalmente al di fuori in realtà dell'articolo 270, 270 è la situazione sovversiva, non viene contestato, sembrerebbe il 270 bis, per fortuna, cioè la situazione con finalità di terrorismo, che è stata contestata in altri casi anche qua a Torino. Ora, il discorso è se è vero che questa azione della Procura riguarda, seguita dal GIP evidentemente, riguarda sostanzialmente solamente la campagna contro il CPR, ecco, la campagna contro il CPR non è sovversione degli ordinamenti economici e sociali, ma campagna contro una delle attività dello Stato, che peraltro io ho sempre ritenuto e continuo a ritenere assolutamente incostituzionale, cioè la detenzione amministrativa dei migranti. Io mi auguro quindi che questa accusa, così come è successo altre volte, non possa tenere poi al vaglio degli organismi giudicanti, proprio perché non ci sono gli elementi costitutivi fondamentali, mi sembra, del reato di associazione sovversiva, che ha tutt'altro ambito di applicazione. Francesca giustamente metteva l'accento su appunto la lotta specifica contro i CPR, e che è un punto assolutamente importante. Detto questo, è anche importante allargare lo sguardo alla macchina repressiva appunto giallo-verde rispetto a tutte le forme, come dire, di quello che è definito illegale o non decoroso. E in questa città questo, come dire, questa strategia l'Appennino la incarna perfettamente, anche relativamente ad esempio alla situazione delle persone rom e dei campi rom nella città, anche qui a suon di tweet, con tanto di live su Facebook, con minacce di mandare le ruspe appunto a abbattere le baracche e sgomberare la gente. Appunto, un tuo commento su la muscolarità di questo governo cittadino 5 Stelle, che qualcuno in tempi passati ha addirittura definito amico, come lo interpreti? Ma sicuramente appunto il Twitter dell'Appennino di ieri è assolutamente esplicito e significativo. Come dicevi giustamente tu, la preoccupazione, questo moloch della legalità, non tutto deve essere legalità, anche se l'illegalità è dentro la giunta, evidentemente, come sappiamo, l'abbiamo saputo. Ecco, questo è particolarmente pericoloso, perché è molto più semplice per la giunta appunto operare nei confronti di Roma, operare nei confronti di migranti, adottare ad esempio e far proprio un piano di sgombero del MOI assolutamente inefficiente, finto, simulato. La volontà è quella di sgomberare, la volontà è quella di normalizzare, la volontà è quella di dare alla pancia, perché alla pancia ha sempre parlato il governo giallo-verde, alla pancia sostanzialmente hanno sempre parlato anche questa maggioranza comunale, dare alla pancia il contentino, far vedere che quello che è brutto e che puzza viene allontanato. In questo credo che debba essere assolutamente chiaro. Non c'è nessuna differenza rispetto a quelli che i 5 Stelle dicevano essere i loro nemici, cioè i Minniti e gli altri. Minniti parlava di decoro urbano. L'Appendino difende questa concezione di decoro urbano. Nulla è cambiato se non forse addirittura un acceleramento nella repressione. Può anche essere un modo per stornare l'attenzione, non so, dei Pasquaretta o appunto dal fatto che non funziona lo sgombro dell'ex MOI, sì, cioè soprattutto Pasquaretta pensavo, ovvero a quel portavoce dell'Appennino che avrebbe anche minacciata e tra l'altro non si capisce bene anche lì che cosa sia davvero, che quali fossero queste minacce, perché nessuno No, assolutamente sì, nel senso che mi sembra che la muscolarità anche da Salvini e Di Maio in giù è sempre stata utilizzata per distogliere l'attenzione da altre questioni che evidentemente potrebbero essere molto più interessanti per l'opinione pubblica. Evidentemente i media vanno assolutamente dietro a questa esigenza, voglio dire, proprio perché è molto più facile, ma da anni io faccio il sociologo, ma credo che la costruzione del nemico sia sempre stata utilizzata per distogliere da quelli che sono invece i veri nemici. Questa era un'altra registrazione tratta da Radio Blackout, una diretta, sempre una clip tratta dalle mille ore che hanno fatto di diretta in questi due giorni, e con interviste, appunto, avrete sentito, insomma, che ci pareva, insomma, integrasse un pochino le cose che abbiamo detto finora e il racconto che è stato fatto, e facesse un po' di chiarezza anche sulla questione legale e sull'inquadramento un po' anche nazionale, che ovviamente non va trascurato, perché è vero che, l'abbiamo detto anche prima, che Torino ha la sua peculiarità, ha una sua dinamica interna, ma insomma si inquadra ovviamente all'interno di un panorama nazionale ben preciso e tutt'altro che roseo, quindi insomma da cui ci potevamo aspettare questo e altro. Non volevamo proseguire moltissimo questa diretta, questo speciale, anche perché in realtà le cose da dire non abbiamo scelto di non intervistare ulteriormente, di non sentire telefonicamente ulteriormente i compagni e le compagne di Torino, perché uberati, immaginiamo, sia dalla diretta che hanno fatto, sia dalle cose che ancora li aspettano dall'assemblea di stasera. Tra l'altro rettifico, avevo detto l'assemblea all'Edera è in corso, ma in realtà era programmata per le 8:30 di stasera, quindi insomma no, ancora deve iniziare e soprattutto insomma si devono anche un po' riposare, immagino, in vista anche della giornata di domani che sarà lunga e faticosa, credo, e quindi abbiamo scelto di farvi sentire un po' di estratti dalle radio nostre sorelle, tra cui appunto ovviamente Radio Blackout, e poi ora proseguiamo con invece un altro estratto, questa volta di qualche giorno fa e di un'altra radio, di Radio Onda Rossa, che ci fa un pochino un racconto dal Balloon, perché anche il Balloon appunto è un mercato, tra l'altro uno dei mercati più grandi d'Europa, mercati all'aperto più grandi d'Europa, che è a Torino, nello stesso quartiere dove è l'asilo, insomma, un po' in là, sì, confinante, diciamo. Aurora, Porta Palazzo, sono confini, sono vicini, sì. Cioè, come metri sono vicini. Sì. Però c'è il confine. Sì. C'è la barricata. C'è la Dora. Beh, insomma, siamo lì, siamo lì e le speculazioni in atto non sono, insomma, anzi, si assomigliano molto. E appunto questo esempio ci serviva un po' per raccontare anche un po' meglio il quartiere, la situazione torinese e quello che sta succedendo. E magari appunto cerchiamo di inquadrare un pochino meglio questo quartiere, perché abbiamo parlato degli anni che furono, degli anni 90, della, ovviamente dell'ingombrante mostro che era la Fiat, delle industrie, del loro declino. E però adesso e poi successivamente del periodo, quello in cui appunto nel 2006, grazie alle meravigliose Olimpiadi invernali, ci fu questa devastazione anche delle esperienze bellissime autogestite che c'erano al tempo, e non di tutte fortunatamente, ma insomma di alcune perlomeno. E arriviamo un po' ai giorni nostri, che chiaramente non c'è stato un cambiamento epocale, le cose si sono susseguite gradualmente, ma appunto magari parliamo un pochino della situazione attuale del quartiere, dei cambiamenti che sta vivendo, di chi lo abita, di chi lo vive, partendo anche magari appunto dal Balloon, che se è vero che non è proprio il centro di questo quartiere, del quartiere Aurora, però insomma ha quantomeno molte affinità ed è una buona lente per raccontare quello che poi succede in molti quartieri torinesi. Il Balloon è un mercato delle pulci sostanzialmente, che si anima una volta alla settimana, e in realtà la fase di ripulitura del Balloon è iniziata parecchio tempo fa, quasi all'epoca dell'occupazione dell'asilo. Infatti in quel periodo era già in atto una campagna di contrapposizione a questo mettere in ordine quella zona di Torino che si configurava, non so se l'avete mai visto il Balloon, però come un mercato delle pulci libero, dove uno si metteva e vendeva. C'era poi chi aveva il posto affittato assegnato, chi invece arrivava lì per prenderselo ogni volta a mezzanotte, alle 11, la sera prima, e passava la notte lì. Insomma, il mercato era sostanzialmente un mercato libero, come vi potete immaginare un mercato delle pulci, ma non degli antiquari, anche se al Balloon ci sono molti antiquari. Quello che però si svolge ogni sabato è ormai alle spalle di dove era una volta, nel senso che nel Balloon tu entravi sorpassando la Dora, quando entravi nel Balloon già lì era tutta zona in realtà di bancarelle libere a metà degli anni 90. Si iniziò appunto libere voleva dire fondamentalmente che chiunque arrivava prima si buttava vendere. Si buttava in strada e vendeva. Sì, era anche sulle pendici della Dora, così. Poi hanno spostato tutto dalle pendici della Dora, e infatti sostanzialmente l'hanno spostato dietro. Le pendici della Dora sono ritornate, come nei bellissimi anni 80, un luogo di smazzo e tossicodipendenza. Che bello. È vero, è così. Una volta a settimana ci andavano a vendere, poi hanno tolto tutto da lì e quindi hanno trovato, cioè si compra e si vende altra roba. Però ma funziona proprio bene il loro sistema di ripulire la città, vero? Allora, se lo applicano proprio come vogliono applicare loro, funziona bene, capito? Perché tutto questo tutta questa cosa la si spinge tutto in un posto che è sempre più lontano, capito? E sempre più là, si fa sempre più grossa la gente che spingi via, poi rimangono solo le brave persone e poi si poi sta napalm bene. Sul resto? No, poi fa rientrare qualcuno per fargli fare da schiavo. Ah, infatti. Capito? Perché comunque non è le brave persone, è meglio se non lavorano. E quindi fa rientrare lo schiavo. Certo, giusto. E più o meno questo. Però, insomma, questa operazione sul Balloon è iniziata tanto tempo fa. Si è molto accelerato in questi anni. Ora che il Balloon appunto è stato spostato dietro, però era troppo lì, cioè a ridosso delle case, ci sono comitati di quartiere, di cittadini che non lo vogliono più sotto perché lascia tutto sporco, e poi la gente appunto arriva al mattino presto, quindi magari al mattino ti arriva la gente alle 3 del mattino, inizia a montare, messo a ridosso delle case, cioè si è iniziata una specie di guerra tra i poveracci e quelli comunque poveracci che abitano, cioè si è ricreata quel meccanismo di guerra tra poveri, dove comunque quello più povero di te ti dà un sacco fastidio e il problema è lui e lo devi mandare via. E quindi in questo momento quello che si sta provando, a quanto ho capito, da osservatore che torna a Torino solo più una volta ogni paio di mesi, è di eliminare completamente il balloon dalla zona di Porta Palazzo, cioè dal retro del cimitero di San Pietro in Vincoli, che è un cimitero sconsacrato, e dalla via dietro al Sermig, e spostarlo più verso Barriera di Milano. Quindi quando si dice, no, che ti pigliano e ti spostano sempre un pochino più in là, cioè in una zona, questo lascerebbe dello spazio libero. La zona attorno a Porta Palazzo, in realtà, essendo tipica, poi fatta di casette, di quelle tipiche di quella zona, perché è una zona che fino all'Ottocento era praticamente quella che viene detto tutta campagna. Cioè lì c'era dal Rondò della Forca, che era esterno alla città, che dove si, come lo dice la parola stessa, c'era la forca. Da lì in giù, dalla Dora in giù, erano baracche, cioè non c'erano case, no? Quando hanno iniziato a esserci, sono rimaste case, diciamo, di una struttura, a parte alcuni palazzi, però ci sono molte ancora palazzine, cioè è un quartiere con le viuzze. Cioè è un quartiere tipico che se lo rimetti a posto poi lì te lo rivendi da Dio. Soprattutto appunto ci sono i negozi di antiquariato, cioè diventa proprio una bomboniera di lusso. Se mandi via tutto sto sudiciume, capito, lo spingi un po' più là. E se quindi la vita, in quel meccanismo della gentrification, della speculazione edilizia torinese, che già in qualche modo ha mangiato tantissimo con le Olimpiadi del 2006, perché nelle Olimpiadi del 2006 praticamente appunto la zona di via Livorno, la zona di via Cigna, tutte queste zone qua, che erano tutte zone di enormi fabbriche, cioè sono diventati quartieri residenziali, dove da zero ti hanno preso la fabbrica e poi brum ci sono trovate dei casermoni, case più o meno care, cioè comunque. Peraltro, scusa, tutto ciò non è che è stato indolore al di là della prospettiva, ma anche sul momento, perché comunque per tirare giù interi e interi isolati di fabbriche, la gente della zona si è respirata la merda. Beh, continua, perché in realtà la cosa caratteristica di quella zona è di essere un work in progress da praticamente 15 anni, che in cui ogni tanto finiscono dei pezzi, ma per dire, il Parco Dora non è mai stato finito, la zona di via Livorno è ancora un cantiere aperto, e infatti cioè, l'aria lì è uno schifo. Cioè io quando vado a Torino mi ammalo sempre, sarò io che sono delicatino, però... No, tipicamente in questo procedimento tipico appunto di opera continua, di cantiere edile continuo, dove per macinare soldi bisogna continuare a costruire, quindi insomma... In un mercato comunque edilizio torinese che è complesso da comprendere, perché mentre, che ne so, a Firenze ogni centimetro quadro vale tantissimi soldi, cioè a Torino non è così, nel senso che a Torino le case costano abbastanza poco, quindi come fai a mantenere una speculazione edilizia con il lusso essenzialmente, quindi prendendo zone di città e facendole diventare zone dove le case legittimamente costano di più perché sono più lussuose, perché sei più vicino al centro, sono più tipiche, hanno, che ne so, l'interior designer che le ha rifatte con le rifiniture di pregio, sono in una zona particolarmente storica, così, e spingendo verso la periferia tutto quello che era in quelle zone, perché finora non era così, nel senso che forse non lo continuerà a esserlo comunque, nel senso che non è che la gente la puoi deportare, quindi però è un meccanismo, no? Appunto tu cacci il balloon, fai risalire i prezzi, la gente non se li può più permettere, allora vanno via quelli, vengono quelli con più soldi, quegli altri li metti nei casermoni che hai costruito in questi tempi, che non hai riempito essenzialmente, perché hai costruito molto più della domanda, sapendolo, perché è evidente che cioè, Torino non è una città che si sta ripopolando, è una città che ha perso abitanti. E quindi insomma quella, la zona attorno al quartiere Aurora, attorno a Porta Palazzo, è interessata da questi fenomeni, in cui si innesta un fenomeno, diciamo, migratorio, che è partito dalla Fiat in avanti, cioè in quella zona venivano, come a Mirafiori eccetera, gli immigrati dal sud e dall'est, quindi anche veneti, così. I miei infatti vengono dal Veneto per lavorare a Torino sostanzialmente. Infatti erano quartieri tipicamente dell'immigrazione, ma dell'immigrazione interna cosiddetta. Dell'immigrazione interna, sì. Infatti era la Torino non si affitta ai meridionali. Era quella roba lì. Che poi, a questa immigrazione si è sostituita poi una seconda fase, che è quella invece dell'immigrazione delle persone che venivano fuori dall'Italia. E... quelli che erano i poracci, più poracci. Esatto, i poracci più poracci. E ora è una zona dove si respira un'aria che si vede in poche altre città italiane, nel senso che spesso sembra di essere a Parigi, è veramente una zona meticcia. Cioè, io mi ricordo una delle prime volte che finì in questura per una denuncia, quando gli diedi le generalità mi dissero: ma te stai nella Kasbah. E io non capivo, e poi ho capito che per loro la Kasbah era praticamente l'angolo tra Via Cecchi e Piazza Baldissero, che era tutto un angolo di immigrazione, dove effettivamente c'era un sacco di immigrazione dal Sudafrica, e insomma dal Nord Africa e dalle zone insomma appartenenti anche a quel Sudafrica continente. In realtà entrambe ok. E questo non ricordo precisamente, però comunque veniva definita così, cioè dai signori della questura quella era la Kasbah, e quindi niente, è una zona molto particolare per la composizione sociale, no? Con tutto la difficoltà che appunto l'inserire un sacco di poracci sostanzialmente tutti nello stesso posto per 20 anni comunque crea una zona senz'altro molto, molto popolare, con tantissimi problemi di svariata natura, di cui però la speculazione edilizia, il controllo poliziesco pesante, cioè tutte queste cose non è che migliorano la situazione, cioè ti rendono solo la vita talmente più impossibile che fa sempre più schifo. E poi nel momento in cui vogliono mettere le cose a posto, bram, capito, spingono lo schifo un po' più là e la zona in qualche modo te la rimettono a posto, però è perché solo perché hanno spinto lo schifo un po' più là. Cioè praticamente da quando era appunto un quartiere di immigrati di fianco alla Fiat e alla Michelin e all'Officine Savigliano e alle acciaierie, insomma tutta quella roba lì, che è semplicemente uno spingere il problema un po' più là. In realtà poi non si è mai risolto niente, perché appunto i grossi gruppi in qualche modo sono queste, le contraddizioni del capitale, se vuoi, che creano il problema. E te semplicemente te lo succhi, e poi ti propongono queste soluzioni spicciole della guerra del poraccio contro il poraccio, e del problema dell'immigrato che è sporco e che non sa buttare le cose nel cassonetto e che non parla italiano, e cioè i tuoi problemi diventano piccoli, no? Cioè quasi come se me li mettessero davanti perché sono facili da vedere, ma in realtà dietro c'ho un gigante enorme, capito, che mi sta schiacciando con la mano, e mi dicono il problema è quello lì, e non è così. Problema, fra l'altro, molto simile alla situazione, parallelo facile, quello con la Francia, con le banlieue francesi, non solo perché in fondo non è una Piemonte, baglia quella, perché non sei isolato in un quartiere studiato, sì, certo, per avere servizi, le cose, ma ti abbiamo messo là e devi star là. Certamente. Cioè lì in realtà sei in un quartiere che è attaccato al centro, dove i servizi magari non ci sono, ma perché non c'è spazio per farli, dove ti cambiano le cose sotto il culo in continuazione perché hanno deciso che lì bisogna fare, cioè sei un quartiere dove hanno inventato questa direttrice che praticamente dovrebbe unire tutta Torino Nord con il centro, che è una specie di boulevard, un'autostrada a quattro corsie che passa esattamente attorno a quartiere Aurora, da Corso Principe Oddone. È una roba che una volta, quando io ero più piccolo, c'era solo una ferrovia de merda, che è poi quella che hanno interrato, con un Corso Principe Oddone, era strettissimo, era una strada a due corsie, con una specie di collinetta che separava la ferrovia, che prima era un po' sopraelevata rispetto al livello della strada. Ora hanno scavato un tunnel, hanno intombato tutto, hanno fatto un boulevard a quattro corsie, e questo boulevard a quattro corsie costeggia il quartiere. Questa cosa non può non impattare sulla vita del quartiere, no? Cioè il fatto che t'abbiano costruito questa roba autostrada di fianco a un quartiere che era tutto residenziale, no? Come compensazione hanno fatto il Parco Dora, che non hanno mai finito. perché chiaramente nelle Olimpiadi 2006 hanno prima fatto tutte le case, l'ultima cosa erano le compensazioni, quindi prima ti hanno ammorbato e poi quando hanno finito hanno iniziato a mettere un po' di verde. Poi finiranno i soldi, sono già finiti, infatti il Parco d'Ora non è mai finito, ma tanto che il Parco d'Ora all'inizio era già utilizzato ma non lo potevano inaugurare perché non avevano i soldi per fare quelle opere per la messa in sicurezza, ma la gente spostava semplicemente la transenna e ci andava lo stesso perché è lì che era finito, cioè dove lo porta a pisciare il cane, cioè non... Sì. Anche. E poi anche sto Parco d'Ora, cioè, è bello perché io quando viene la gente lo porto a vedere il Parco d'Ora perché effettivamente hanno lasciato tutta la struttura delle officine Savigliano, poi mi hanno spiegato che l'hanno lasciata ma solo perché se lo facellominavano, cioè crollava tutto il resto del quartiere, cioè non la potevano tirare giù quella cosa, dovevano per forza inventarsi un modo per lasciarla lì perché altrimenti cioè era talmente grossa quella roba che tirava giù tutte le case, le crepava tutte, perché poi attorno ci hanno costruito 50.000 case chiaramente, no, prima, e il parco poi non l'hanno mai finito, e quindi questo è un po' la dimensione. Lo sgombero del balloon, perché di fatto di quello si tratta, dello spostamento da un'altra parte, alla fine si inserisce in quest'ottica qua, cioè di queste manovre per rendere, diciamo, per aiutare la vivibilità, però è un'invivibilità che hai creato te, cioè capito, non lo so, cioè la naturale auto-organizzazione di queste cose probabilmente tenderebbe a un equilibrio, cioè il meccanismo di metterle sempre con interessi esterni enormi è quello che crea il problema. Però non ti viene detto così, ti viene detto come, lo vedi, guarda che casino, cioè no, bisogna spostare sto sudicio, è lo sporco in terra, e in qualche modo è il discorso che la metropoli è criminogena. Cioè, quando invece probabilmente l'auto-organizzazione è un po' quello che ci salva generalmente, per quello anche prima citavo le balie non perché sono uguali a tutt'altro, cioè anzi magari assomigliano più la situazione delle periferie torinesi più a delle balie all'italiana, nel senso che comunque assomigliano da un punto di vista, perché si tratta anche nel caso delle balie francesi, si trattava di abitanti che prima erano la feccia francese e poi è diventata la feccia non francese, cioè i poracci francesi che poi a un certo punto sono diventati leggermente meno poracci e che si sono visti piombare come vicini di casa i poracci più poracci di loro, che erano magrebini provenienti dalle ex colonie francesi, algerini eccetera, e quindi si è create tutte quelle dinamiche di odio tipiche di quando crei delle situazioni di questo tipo esplosive. E in questo sono molto simili, ma è molto diversa poi lo spirito, credo, ora non voglio azzardare un parallelo forse eccessivo, però mentre in Francia c'è almeno per certi settori molto vasti della popolazione una fiducia nello Stato che comunque ci metterà le mani, e invece in Italia questa fiducia non c'è mai stata, e tantomeno in una città come Torino e nelle periferie torinesi, per cui si creano delle situazioni di auto-organizzazione come per esempio anche il balloon. E, senza per questo volerne fare un esempio di idilliaco, perché non lo è. Perché non lo è, non lo è assolutamente. C'ha tutte le contraddizioni, certo, del caso. Però è evidentemente una risposta che, con tutte le sue difficoltà e contraddizioni, viene data a una vita sempre più difficile. È una risposta in qualche modo auto-organizzata che le persone provano a dare. È la presunzione di capito, da ingegnere sociale proprio, no? Di prendere una cosa, sradicarla da un tessuto, metterla da un'altra parte e dire adesso te stai qui, come se questa cosa è come se è come prendere le gente delle persone che hanno abitato sempre in un posto e dirgli no, voi non state più qua, dovete andare da un'altra parte, come nei casi, che ne so, di terremoti, di queste, cioè, sono interventi, e pensare che funzioni, esatto, sono interventi che è evidente che non sono risolutivi, cioè che sono solo generatori di altri problemi, cioè non puoi spostare una contraddizione senza risolverla, cioè in qualche modo devi mettere mano, no? Non puoi pensare che semplicemente basti spostare più là, però in realtà funziona spesso così, perché appunto la maggior parte delle nostre giunte appunto hanno un termine, no? Quindi te alla fine, che cazzo te ne frega, te arrivi alla fine della tua giunta, no? Cioè, e devi fare delle cose. Ma poi sono cazzi tuoi, se vuoi farti rieleggere, Però se no comunque ti basta arrivare alla fine della giunta, cioè la tua prospettiva qual è da qui a 4 anni? Anche perché probabilmente la loro idea di problema e di soluzione non coincide affatto con la nostra. Probabilmente quello che loro pensano, no, allora, che sia una risoluzione che, è che lontanissimo. Vada bene così, no? Nel senso che tu comunque ti sei guadagnato del consenso levando quella roba da lì, così i comitati sono contenti, l'hai messo da un'altra parte, non andrà bene a qualcun altro, ma se scegli una zona sufficientemente diciamo deserta o comunque facilmente circoscrivibile o magari si opera su chi va a vendere. Cioè, non potrebbe anche essere probabilmente una soluzione, no? Il fatto di irregimentare di più, restringere, fare licenze, cioè cercare di regolamentare quel tipo di attività, che poi è un'attività di sussistenza. Cioè, se avete visto qualche volta il balone, ci si butta a vendere praticamente chiunque. Per quello intendevo, cioè, parlavo di auto-organizzazione, certo. Dal poveraccio che si vende le scarpe usate allo studente squattrinato che si vende 4 stronzate, che è un modo a per quelli sopravvivere. Più organizzati che fanno i rigattieri, chissà aggiustare le cose. Cioè, è una roba così. Cioè, alla fine si va a minare un'economia di sussistenza. E tra l'altro di convivenza anche, perché sì, in qualche forzata, modo... con tutti i problemi che c'ha. Con tutti però i problemi, ma anche con le... Pronti, sì. Le cose positive che ha. Sì. Allora, siccome abbiamo parlato tantissimo, metterei un brano musicale per far riposare un po' chi ci ascolta e poi vi farei sentire questa breve intervista, breve insomma 11 minuti circa, questa intervista che riguarda proprio il balloon, un'intervista fatta da Radio Onda Rossa a un compagno di Torino che racconta la situazione del balloon e nelle sue ultime evoluzioni, quindi non tanto l'introduzione che invece potete trovare sempre su Radio Onda Rossa in una precedente intervista, ma l'introduzione un po' ve l'abbiamo già fatta noi, quindi ve la eviterei, ma vi racconterà un po' meglio insomma le evoluzioni degli ultimi giorni. E fra l'altro il balloon si svolge di sabato, il sabato mattina, domani è sabato e quindi chissà cosa succederà, insomma questa intervista di qualche giorno fa, quindi non tiene conto chiaramente della giornata di domani e no, come non è possibile che faccia, e vediamo poi domani insomma cosa succederà in questo clima particolarmente frizzante che c'è in questa città. Quindi prima vi mettiamo in Nuvola Blu e poi subito l'intervista. We'll be right back. Ciao, buongiorno e grazie a voi. Come avevo detto l'altra volta, il 19 gennaio avrebbe dovuto essere il primo giorno di spostamento in cui il mercato degli Staccivendoli non dovrà più tenersi nel quartiere tradizionale, ma più lontano, a nord. Come avevo raccontato, quel primo sabato gli Staccivendoli decisero di contravvenire alle leggi del comune e di presentarsi lo stesso nel quartiere. Dopo questo primo atto di ribellione, Chiara Appendino, sindaco di Torino, ha detto ai giornali durante la settimana che non sarebbero state più tollerate altre forme di disobbedienza, e invece la settimana dopo, cioè il sabato 26, ancora una volta gli Staccivendoli hanno fatto i loro presidi, hanno acceso i loro fuochi nel quartiere, e alla mattina si sono presentati in più di 400 spazi di esposizione nel quartiere stesso. Ovviamente la tensione e anche gli attacchi al comune sono aumentati, sebbene sono aumentati soltanto dal punto di vista così mediatico, soltanto da destra, perché la voce degli Staccivendoli non è stata assolutamente ascoltata. Comunque questi attacchi avanzati contro la giunta, la Chiara Appendino è intervenuta in consiglio comunale la settimana scorsa dicendo che non sarebbe stata assolutamente tollerata un'altra infrazione e che la decisione del comune era irrevocabile. E ancora una volta questo venerdì notte c'è stato un presidio, e ancora una volta il mercato, nonostante la neve, si è tenuto sempre nel quartiere. Quindi siamo di fronte a tre infrazioni di una delibera avanzate dagli Staccivendoli, la cui composizione sociale ho descritto l'altra volta. Questo è il dato in fondo più interessante e positivo. Sì. Dimmi. Sì, no, dicevo, quindi tre sabati di seguito contro questa delibera, e il dato è sicuramente positivo, come ci dicevi. E come si andrà avanti, però, di volta in volta, di sabato in sabato? Quali sono le previsioni? Questo è molto interessante, perché innanzitutto c'è un gruppo di solidali del quartiere, degli spazi occupati vicini, che aiutano soprattutto dal punto di vista logistico questi presidi. Tuttavia spesso si cerca, no, di dare un'organizzazione anche più strutturata, più coerente, magari più razionale, però questo è impossibile, e secondo me in un certo senso è anche un dato interessante, ma non del tutto negativo, perché il mercato in realtà è composto da tante anime, tante comunità, non esiste la possibilità di avere una razionalità comune, di conseguenza i presidi vengono indetti in maniera anche poco coordinata, le strategie sono frutto anche dell'improvvisazione, dello spontaneismo, se posso usare questa parola, e secondo me questo rende imprevedibile l'andamento della protesta e anche di difficile lettura. Secondo me questo è un dato positivo. Io personalmente cerco di intervenire il meno possibile nell'organizzazione più razionale di questi movimenti. Vorrei che nascesse sotto organizzazione dagli Staccivendoli stessi, anche in maniera frammentaria, perché questo li rende, come dicevo prima, imprevedibili. Un dato fondamentale per cercare di provare a leggere quello che succederà è il comportamento della questura, delle forze di polizia. La questura non è mai intervenuta, le polizie non è mai intervenuta in queste nottate, si sono presentate solo delle volanti della polizia municipale che monitoravano il presidio, senza alcun intervento. Questo significa, secondo me, potrebbe significare quantomeno un sintomo di uno scollamento fra questura e giunta comunale, ovvero non c'è la volontà da parte delle forze dell'ordine di gestire un problema di ordine pubblico creato dalla delibera del comune, soprattutto perché il quartiere in questione è un quartiere che il sabato vede arrivare decine di migliaia, se non di più, di persone, perché è vicino al mercato di Porta Palazzo, è in qualche modo il cuore di Torino. Gestire l'ordine pubblico, gestire lo sgombero e anche possibili possibili forme di resistenza in un quartiere così complesso, così frequentato, così affollato, è molto difficile. Di conseguenza, finora la questura ha lasciato fare. Questo perché è interessante? Perché in realtà mette il comune in una posizione di isolamento, o quantomeno finora il comune si dimostra isolato ed è un di fatto debole. Sebbene questa cosa non venga sottolineata dai giornali principali della città, il comune è un soggetto politico che in questo momento sta deliberando, e queste delibere non vengono riconosciute, e non vengono riconosciute dagli ultimi. Il dato poi che a me dà personalmente più lo trovo più interessante, anche da una certa soddisfazione politica. Quello che accadrà è di difficile lettura. Sicuramente la posizione del comune, il fatto che è irremovibile, il fatto che intende finora non cedere alcun negoziato, è un aspetto positivo, perché sta compattando le ragioni degli estracivendoli. Molto più problematica sarà la possibilità di una mediazione, a cui spero sempre che gli estracivendoli sapranno reagire con fermezza. Senti, fa un po' strano dirlo da noi, ma dall'atteggiamento della questura in qualche modo sottolinea come, diciamo, la proposta più razionale e realistica sia quella degli operatori del mercato e non quella del sindaco e della sua giunta. Insomma, è un dato di fatto, almeno sembrerebbe. Certo, la questione interessante è proprio questa, secondo me. Non soltanto questa giunta, come le giunte precedenti, rappresenta gli interessi forti della città, impresari, commercianti, antiquari del quartiere e investitori, grandi investitori come compagnie di San Paolo, di cui si è parlato l'altra volta. Non soltanto il comune favorisce questi interessi, ma non ha neanche una reale lettura della realtà concreta del quartiere. Favorisce gli interessi dei più forti, ma non riesce però ad avere una capacità di analisi, di comprensione delle dinamiche urbane, secondo me, e sempre di più questo è evidente. Ovvero, ci troviamo di fronte a una giunta che rappresenta i più forti, ma non è neanche capace di comprendere la città, e si sta giorno dopo giorno, poi ci sono anche altre notizie che riguardano ultimamente la stessa giunta, sta perdendo di legittimazione, e questo è un vantaggio per chi si muove e lotta contro questi poteri, queste forme di governo. Nel momento della questura, lo so che è strano, non ho particolare apprezzamento per la funzione politica e sociale che svolgono le forze dell'ordine. Penso che ogni volta però dobbiamo leggere in maniera molto concreta e analitica quello che sta avvenendo. In questo momento il dato interessante è che il comune è isolato, e dunque bisogna sfruttare, credo, questo isolamento, e bisogna cercare proprio di lavorare affinché continui a essere tale, a proclamare con forza intenzioni che poi non si avverano. Più tra l'altro Chiara Appendino, come ha fatto la settimana scorsa, dice in maniera netta e perentoria e irrevocabile, e più la sua voce di fatto viene smentita dagli ultimi, più la sua stessa legittimità di governante viene screditata, e questo è un altro dato molto molto importante. Eh sì, poi insomma le vicende del portavoce della sindaca sono arrivate, esatto, fin qui addirittura, che di solito insomma non siamo attentissimi a quanto succede, per cui ci sembra significativo. Senti Francesco, come rimaniamo allora? L'appuntamento a questo punto è per lunedì o martedì prossimo, per capire come andrà anche questo fine settimana. Immaginiamo sarà in linea con il fine settimana scorsi a questo punto. Purtroppo la situazione è in evoluzione, un'evoluzione che è sempre imprevedibile. Sicuramente ci sarà sempre un presidio, sicuramente ci saranno gli stracivendoli, i mercatari, gli ambulanti che vorranno fare il mercato lì, e spero che non vi siano novità. Tuttavia la novità potrebbe arrivare in ogni momento, e l'unica cosa che bisogna fare e ripetere fino alla nausea è quella, secondo me, di rimanere tutti uniti, sperando che vi siano gli stessi soggetti politici poi reali, perché poi non sono io, non siamo noi i veri protagonisti di questa storia, ma che sono gli Sacciventoli, che rimangano uniti, coesi nell'intento di rimanere nel quartiere, in tutta l'area a loro assegnata in questi ultimi due decenni, che non accettino nessuna forma di mediazione. Questo è l'unico rischio, e secondo me finché loro saranno convinti e coesi, pur nella frammentazione di cui parlavo prima, sarà molto molto difficile per il potere operare su di loro per sgomberarli. Benissimo, questo ovviamente è anche il nostro auspicio. Se non c'è altro da aggiungere a questo punto, ti ringrazieremmo e dandoci appuntamento alla prossima settimana, sperando che le notizie che continuano ad arrivare da Torino siano le stesse, insomma, che ci hai dato anche oggi. Perfetto, grazie a voi. Grazie a te, a presto e buona giornata. Un abbraccio. Ciao Francesco. Ciao. No, le notizie sono state un po' più brutte, ecco. Arrivate da Torino nel frattempo. Allora, abbiamo finito, direi, lo speciale di questa giornata di oggi dedicata a Torino, però volevamo cogliere l'occasione per darvi altre due informazioni veloci. Una è farvi sentire una breve intervista che è stata realizzata ieri, 3 minuti circa, una breve intervista che è stata realizzata al presidio autoconvocato che c'è stato in seguito alla conferenza, la decisione della conferenza dei servizi a Roma, che ha votato per il sì all'allargamento della pista dell'aeroporto qua a Firenze, e quindi insomma decisione che stavamo tutti purtroppo insomma temevamo e che stavamo lì a aspettare che arrivasse, e anche se ovviamente ci auguravamo per un no. E quindi abbiamo registrato questa piccola intervista che ci racconta un pochino quello che è stata la giornata di ieri anche a Firenze, perché chiaramente non solo Torino ci ha tenuto impegnati, ecco. Quindi ve la passiamo al volo. Eccoci qua, siamo al presidio, no, inceneritore dell'aeroporto, dove si sono dati appuntamento i militanti, i cittadini che si stanno battendo contro l'ampliamento della pista aeroportuale in seguito alle decisioni di ieri della conferenza dei servizi a Roma, che ha dato parere positivo alla costruzione dell'aeroporto. Siamo qui con Sebastiano e subito gli chiediamo cosa ha detto in concreto questa assemblea dei servizi, cosa ha deliberato. Sì, allora diciamo alla fine la conferenza dei servizi, quindi tutti i comuni, Stato, Regioni hanno dato il parere positivo, l'autorizzazione per questo mega nuovo aeroporto, escluso i comuni di Sesto, Campi e Prato, che hanno dato parere negativo. È un'autorizzazione che un po' ci aspettavamo, comunque la lotta non è finita, perché abbiamo visto che anche sull'inceneritore avevano tutta l'autorizzazione e poi abbiamo vinto noi portando in piazza più di 15.000 persone, vincendo al TAR, e proveremo a fare lo stesso anche sull'aeroporto. Ecco, siamo qui al presidio, appunto, in cui è già stato srotolato uno striscione in cui chiaramente oltre a opporsi, a ribadire l'opposizione alla costruzione dell'aeroporto, dà appuntamento anche per le prossime iniziative, in particolare la manifestazione. Ecco, partendo da oggi, quali sono i prossimi appuntamenti, le prossime iniziative di lotta? Sì, certamente, come dice lo striscione, la piana non si arrende al potere dei soldi, perché da una parte ci sono grandi quantità di soldi, noi quello possiamo mettere in campo una grande quantità di partecipazione e di persone. Quindi il 30 marzo vogliamo fare questa grande manifestazione. Inviteremo anche i sindaci contrari a partecipare e vogliamo appunto ribaltare un po' le carte in tavola, sia con la partecipazione sia con gli aspetti legali, appunto con il ricorso al TAR. Nel frattempo stasera faremo un'assemblea a Quinto per informare la popolazione di Quinto, e il 10 per raccogliere i fondi, o comunque avremo bisogno di fondi per andare avanti, ma probabilmente anche per difenderci, perché ci abbiamo già Toscano Corti pronta con qualche denuncia. Quindi il 10 faremo questa gnoccata pranzo a Quinto, e se volete partecipare ci fa molto piacere. Ci sarà anche Radio Wombat, c'è anche un invito alla manifestazione nazionale contro le grandi opere inutili e dannose del 23 marzo prossimo. Chiaramente è fondamentale, la marcia per il clima e contro le grandi opere è perfetta per raccontare questi anni di lotte di tanti comitati, che alla fine l'obiettivo non è solo quello di combattere contro un'opera nel nostro giardino, perché non è mai stato quello il nostro obiettivo, ma quello di cambiare un sistema economico che ormai ha avvelenato e sta distruggendo il nostro pianeta. Quindi ecco, la marcia per il clima è fondamentale il 23 marzo a Roma, sicuramente ci saremo con dei bus da Firenze in tanti. Radio Wombat, vi salutiamo, intanto questa è una prima corrispondenza, ricordiamo potete ascoltare in streaming e in AM1359 nella zona di Firenze. Ciao ciao. Ciao, grazie, ciao. Bene, e con questo direi che vi lasciamo e vi ricordo l'appuntamento importante di domani a Torino, appunto il corteo nazionale che è stato indetto in seguito a tutta questa vicenda, alle 16 con partenza ancora non si sa dove, ma tenetevi, scusate, un post-it dalla regia mi dice Piazza Castello, quindi alle 16 partenza da Piazza Castello a Torino, domani 9 febbraio e corteo nazionale in difesa delle suggestioni e chiaramente insomma per dire la nostra su tutta questa situazione di cui abbiamo parlato abbondantemente oggi. Prima di salutarvi vi lasciamo con un piccolissimo spottino fatto da Radio Onda Rossa per il lancio della campagna abbonamenti che ha deciso di fare Radio Onda Rossa. Vi ricordo che come del resto anche noi Radio Onda Rossa, che esiste da ben più anni, è una radio che senza padroni, che vive di sottoscrizioni e che non ha alcun finanziamento e che ha bisogno del sostegno di tutti per continuare a sopravvivere, e quindi volentierissimo diamo spazio alla loro piccola campagna di sottoscrizioni. Con questo vi saluto e vi ricordiamo appunto di rimanere collegati sempre su Radio One. Continuano le trasmissioni, a breve inizierà Uru e poi la bobina e tutto il nostro palinsesto. A presto, ciao ciao. E buonasera signore e signori, benvenuti al Teatro Ariston per la prima serata del festival. Presentiamo i primi concorrenti in gara, il coro di Radio Onda Rossa, diretto dal maestro Beppe Vessicchio. Il pezzo in gara è 30 per 1000, un pezzo dedicato a tutte le radio autogestite romane che per sopravvivere non contano sulla pubblicità, ma sul sostegno di ascoltatori e ascoltatrici. Musica, maestro! Il trasmettitore, compagne, non basta, la spesa ordinaria noi dobbiamo affrontar. Ovunque sono spese molto costose, chi ha cuore la radio ora deve sganciare. Con la campagna 30 per 1000, un anno intero si può continuar. Radio abbonamento, radio abbonamento, questa è la scelta che ti resta da far. E allora vi ricordiamo che per partecipare alla campagna di radio abbonamento annuale di Radio Onda Rossa basta andare sul sito ondarossa.info e cliccare su Sostieni.